ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Tredicesima puntata. Dimmi cosa è successo, Walter, in viaggio. Tornando abbiamo fatto ritardo. Non volevano far partire gli aerei per la neve. No, dico lassù, le tue impressioni. Le impressioni non contano, contano i fatti. Le cose non dovevano essere andate troppo bene, ma è inutile insistere. Dopo un poco si arrischiò a dire: io sono tornata la sera di Capodanno. E perché? Fece lui distratto e già calmo. Perché? Per forza, Giulia è rimasta dai nonni. A portarmela a Roma ci ho rinunciato da un pezzo, solo vorrei che si rimettesse, così dimagrita. È una bambina seria, con gli occhi troppo grandi, e non ha voglia di studiare. Quello che è peggio è che non ha voglia di giocare. Lui si era sdraiato, guardava il soffitto e nemmeno ascoltava. Qui ho trovato novità poco piacevoli. Cesare, mio marito, è passato in libreria a chiedere di me. Per fortuna un momento che ero fuori. Allora mi ha scritto. Ah. Dice che ha messo su casa a Roma, che gli affari vanno a belle gonfie, ma è ammalato. Non mi ricordo che malattia. Riproviamoci, ricostruiamo. Facciamo venire la Giulia con noi, non siamo poi tanto vecchi. Chiude mercoledì e sabato, vado a cena ai Tre Scalini in Piazza Navona, dalle 8 alle 8 e mezzo ti aspetto prima di cominciare a mangiare. Ferranini ridacchiò. È più gentile di me. Cosa aspetti a farlo felice? Aspetto di essere certa che non mi vuoi più bene. No, non è vero. Cesare mi sarebbe odioso in ogni modo. Però se tu mi vuoi bene, non lo so affatto. Tu non me lo potresti dire. Le gettò un'occhiata. Il viso magro, il naso, il collo, il groppo scuro dei capelli con le striature di rame. Il naso lungo, delicato, con le narici che gli parevano strane per la loro sottigliezza che vibrava. Piccola e così viva quella nuccia, con tanta vita dentro. E poi gli piaceva. Gli piaceva vederla eccitarsi subito, rispondergli. Vieni qua. E dove? A letto. Era una donna, credette di essere accorta. Non gli ubbidì. No, Walter, rimango qui. Lui non ripeté l'invito e si aggiustò i cuscini sotto la testa sul letto. Certe sere per dormire non gli bastava un cuscino solo. Dunque, non me lo dici? C'è poco posto, nella vita di Walter per la sua amica. C'è posto per i ricordi, c'è posto per le idee. Lei si guardò intorno, si accorse dei cassetti aperti e delle carte in disordine. Andò dritta all'armadio, a frugare nelle tasche dei vestiti. Si voltò e buttò sul letto un paio di veline sgualcite e mezzo strappate. «Toh!» fece Ferranini meravigliato. «C'erano!» «Lo capisci che ti ci vuole la nuccia?» «Ma sì, te lo stavo dicendo. Complimenti non te ne faccio come il tuo Cesare. Ti posso dire questo e non so quanti potrebbero dirlo all'amante. Non ho che te. A parte che non ho donne, non ho nessun altro essere umano. C'è Oscar Fubini, è un amico politico. Non mi trattare più tanto male. Oh, Walter. Non ti tratto male, disse lui, che già si era perdonato. Gli andò vicino, gli circondò la testa col braccio. Conoscere un uomo è sempre facile per una donna. E con te, poi, è facilissimo. Complimenti non ne fai, no. Eppure, rozzo come sei, un pensiero delicato in te è credibile. È vero? Fece lui senza avere troppo capito. Oh, ragazzo mio. Tu, Ferranini si alzò a sedere sul letto. Stiamo attenti, non devo mica darti illusioni. E avrebbe voluto dire: guarda che non sono innamorato come piacerebbe a te. Manuccia aveva inteso diversamente e disse, mentre seguitava ad accarezzargli i capelli: dunque è finita presto. Sentiamo, con chi ti sei impegnato? Con te stesso o col partito? Lui non la smentì, rispose: «Dovrebbe essere la stessa cosa». «Ma sei sicuro che ne vale la pena?» Già, era quello il punto. Allora gli fece notare che le due veline erano in brandelli, impresentabili. «Domattina», disse Ferranini, «devono venire con me a Reggio. Bisognerà che mi resti il tempo di ricopiarle. Te le copio io. Me le dai, io te le porto domani mattina al treno». Così, alle 7:30, la mattina, si mise in autobus per essere puntuale al treno delle 8. Sulla banchina della stazione vide Walter che parlava con qualcuno, un piccolo uomo gesticolante. Non c'era nemmeno modo di stare un minuto insieme. Si figurò che quello fosse un personaggio politico. «Come faccio adesso a consegnargli la lettera?» Gli andò vicino e disse: «Ecco quelle carte, onorevole, non le occorre altro?» E se ne tornò via, consolata per il sorriso che lui le aveva fatto. Il personaggio politico era il Gobbo Rosso, Asvero Ancillotti, in partenza anche lui per Reggio. Ferranini se l'era visto fra i piedi e stava cercando la maniera di liberarsene. Cosa sarà venuto a pasticciare a Roma? «Caro Ferranini», diceva Ancillotti con la vocetta ventriloqua, «stiamo accorrendo tutti al plenum. Importante, sai, la riunione di oggi». Ferranini aveva appena scorso l'Unità, dove alla riunione di Reggio, nella rubrichetta Vita di partito, erano dedicate 4 righe scarse, corpo 6. «Ma va a farti fottere», aveva voglia di dirgli. «Te e il tuo plenum, buffone». Il giornale portava anche la notizia dell'espulsione dal partito di Roberto Mazzola, da Torino. Persona che aveva ampiamente attestato la propria incultura comunista e perseverante in disciplina. A quest'altra notizia erano dedicate 9 righe di 6ª pagina. Dell'articolo ritrovato per merito di una bella ragazza non si occupò più nei giorni seguenti, finché non gli arrivò un telegramma di Amoruso. Amoruso era a Napoli e gli telegrafava: «Letto tuo lavoro, complimenti vivissimi». Si cacciò in tasca il telegramma con un'alzata di spalle. Cosa gli veniva in mente poi a quello là? Era il pomeriggio di venerdì 6 febbraio. La sera, entrando in trattoria dopo la seduta alla Camera, erano quasi le 10, fu raggiunto da un individuo che si qualificò inviato da un settimanale di Roma, un rotocalco. Gli chiedeva qualche dichiarazione sul pezzo uscito nella rivista di Moravia e Carocci. La novità lo sorprendeva, e non piacevolmente. Pure rispose in tono abbastanza gentile: «Se vi interessa, dirò che vi mandino una copia». «Ma no, non ci serve», ribatté quello. «Lei dovrebbe dirmi la portata politica dell'articolo». «Portata politica? Nessuna. Il mio è solo un punto di vista. Una teoria?» «La chiami una teoria?» E si mise a tavola. Quello però non aveva finito. «Lei si occupa di marxismo?» «Difatti». «E che pensa del marxismo?» «Penso che è il più grande avvenimento dell'era moderna». L'aria svagata e sprovveduta dell'intervistatore quasi lo divertì. «Che vuole che sappia io?» fece il giovanotto seccato. «Il caporedattore mi ha mandato con l'incarico di spremerle qualcosa su questo famoso articolo». «E allora torni dal suo capo, chieda istruzioni, poi venga a spremermi». Ma il giorno seguente, in un angolo della terza pagina, il Tempo riportava, sotto il titolino blandamente interrogativo, in odore di eresia: «Non si può negare a Moravia un notevole fiuto. In un oscuro deputato comunista che le recenti elezioni hanno fatto piovere a Roma dalla natia provincia del nord, pare abbia scovato un interprete assai poco ortodosso del verbo di Marx. Nell'ultimo fascicolo di Nuovi Argomenti compare un articolo di Walter Ferranini, il deputato in questione, dove si formula in termini decisi una critica all'ottimismo messianico che ispira la dottrina marxista marziana e comunistica. Per ora non risulta che gli specialisti della materia abbiano risposto, né si sa quali accoglienze abbia avuto l'articolo nei circoli ufficiali del PC. Peraltro è facile prevedere che esso avrà una risonanza e susciterà reazioni. La notizia, a due giorni di distanza, rimbalzava sulle colonne del Corriere della Sera. Sappiamo con quanta cautela, si faceva mandare da Roma il giornale, sia concesso ai militanti e gerarchi comunisti l'imprimatur quando intentano affidare le loro opinioni a organi di stampa che non siano quelli del partito. In sostanza, l'articolo abbozza la tesi secondo cui l'onerosità o penosità del lavoro, anziché connettersi all'alienazione e allo sfruttamento capitalistico, sarebbe un carattere intrinseco al lavoro e come tale si inserirebbe in una fatalità non tanto storica quanto fisica, naturale. Per adesso va rilevato, il quotidiano del PC preferisce ignorare. Un rotocalco, oltre a fornire una fotografia di Ferranini, un'istantanea presa da chi? Da un paparazzo, in largo Chigi mentre era al fianco di Luigi Boatta, si permetteva spiritose illazioni. Il personaggio non è abbastanza importante da meritare una scomunica con tutte le forme. Prevediamo che sarà spedito per qualche tempo a espiare i suoi peccati ideologici mediante opere pie organizzative in provincia o tutt'al più a meditare in qualche convento rosso sui sacri testi marxistici. Nel giro di una settimana l'articolo di Ferranini era citato e riassunto in maniera più o meno frammentaria e arbitraria da altri giornali borghesi del nord e del centro Italia. «Non ti rimane», disse Nuccia tentando lo scherzo, «che abbonarti all'Eco della Stampa». Si vedevano in libreria e il martedì, giorno in cui Ferranini si era accorto che la libreria era meno frequentata. Entrava nello studiolo di Nuccia, l'unica concessione che le avesse fatto. Ci si fermava al massimo una mezz'ora. «Il giornalismo», le rispose, «è scandalistico, ma è anche di poca memoria. La settimana prossima mi avranno dimenticato. Intanto però ci fanno una speculazione. Non sanno a che cosa attaccarsi. La borghesia italiana non ha, non può avere risorse polemiche. E il partito come reagisce? Non lo so. Sarà quello che sarà». Parlava tranquillo, poteva parere sicuro. Nuccia non si fidava. Aveva paura di ciò che Walter nascondeva e insieme pena di sentirsi scartata dalla sua confidenza. Provò a scavare. «Mi sembra così strano da parte tua». «E cosa?» «Non chiedere ai tuoi superiori l'autorizzazione di fare l'articolo». «L'ho anche chiesta, ma erano giornate che ero sotto sopra, varie storie, anche quella che tu sai». Cioè, fra l'altro, l'incontro con la Filippetto, di cui si era deciso a parlare, e la faccenda Mazzola, sulla quale invece intendeva mantenere il silenzio. «Del resto», aggiunse, «la stessa rivista anni fa aveva pubblicato delle dichiarazioni del compagno Maccagni». «Caro», fece lei, intenerita davvero da quella ingenuità. «Non lo vuoi capire che ci sono due pesi e due misure? Guarda questo giornale. C'è un trafiletto sul caso Ferranini. Termina così. I gerarchi di Reggio Emilia hanno già dato in passato seri grattacapi alla direzione del PC. Che cosa intendono secondo te?» «Non mi interessa». «Scusa, dai precedenti potresti farti un'idea del seguito che avrà il tuo caso». Stava seduto allo scrittoio di Nuccia, lei in piedi, vicino, che gli teneva la mano sulla spalla. Si alzò respingendola. «Precedenti? Non sono mica un criminale io. Ho esposto una tesi, pensieri che avevo in testa da anni e non sono mica immaginazioni. Poggiano sulla mia esperienza, sull'esperienza di tanti altri lavoratori». «Reparatore di che parere è? E Boatta? Boatta è a casa sua, in Piemonte. Reparatore è in giro, a Busto Arsizio o a Monza per lo sciopero dei tessili. La camera si è aggiornata, ci sono le amministrative in diverse province. Ci riconvocano a domicilio, sicché sono isolato. Ma non importa, io ho esposto una tesi, una verità, l'esperienza dei lavoratori. Si ripeteva, ma era quella convinzione che lo teneva su. E Amoruso? Insisteva lei. Amoruso è al paese suo anche lui. Per quello che mi devo aspettare da Amoruso. Ti pare? È tanto comunista come lo sei te. Ossia, tu lo sei molto di più. Infine, vieni dalla Resistenza. Che in quei giorni non ci fosse bisogno di andare a Montecitorio gli sembrò anzi una immeritata fortuna. Non solo non gli dispiaceva di essere isolato, ma lo ricercava. Si decise a cambiare trattoria. Per la prima volta in 6 mesi. Aspettava la mattina che con la posta arrivasse l'unità e che la bambina di Giordano gliela portasse in camera. Un pomeriggio che Nuccia si attentò a andare in via del Leonetto, lo trovò con la barba lunga, steso sul letto con i piedi dalla parte del capezzale, per avere luce dalla finestra, che prendeva notazione dai 3 libroni della storia della biologia, uno dei quali teneva puntato sul petto come un leggio. «Walter, non dovresti ridurti così!» «Beh, me ne sto qua, purgo i miei peccati e la mia ignoranza!» Pareva abbastanza sollevato e non le rimproverò la visita fuori programma. «Io ti consiglierei di andare a Reggio, fino alla riapertura della camera. Tanto, vederci non ci vediamo. E a Reggio hai i fubini, i bignami!» Non le rispose. Ma il pensiero che gli passò dentro era chiaro e Nuccia si pentì di avere parlato. «Vieni con me stasera. No, non al ristorante. Prendiamo una tazza di caffè latte a casa mia. Lì nessuno ti conosce. Quello che non mi permettevo una settimana fa me lo devo permettere ora». Anche quel discorso, per quanto conciso, era chiaro. Nuccia non avrebbe dovuto ostinarsi. «E perché? Semmai proprio ora. D'ora in poi», osservò lui fregandosi rumorosamente la barba con le 2 mani, «ho l'obbligo di essere puro. È una parola che mi piace poco, ma la verità è questa». «Ah, sta allegra una donna con te», le scappò detto. «Piantami se vuoi spassartela, sei libera. Io so quel che mi faccio. Non voglio che mi possano attaccare anche dal lato della vita privata. Sarà un sacrificio, ma il primo a pagare sono io». Il pomeriggio del 21 febbraio, Ferranini ruppe la sua volontaria quarantena e uscì, diretto al cinematografo. Aveva visto sul giornale che al Metropolitan davano un film western. Sul portone di casa lo fermò un ragazzotto smontato da un furgoncino. «Ferranini Walter sta qui?» «Chi ti manda?» «Pasticceria Ribaudengo, c'è una lettera». Dall'auto, carica di pacchi, esalava un odore di paste fresche. La lettera era di Boatta, il quale, ricordò, alloggiava presso un cugino dalle parti della stazione Termini, proprietario di un laboratorio di pasticceria. «Ti aspetto stasera per comunicazioni che ti riguardano». Niente altro, ma bastava. Il suo pensiero richiamò l'incontro con la Filippetto, giusto alla stazione Termini. Gli parvero tempi buoni e remoti. Macchinalmente si mise in cammino, prese per via della scrofa, senza accorgersi della pioggia battente. In piazza Colonna il traffico era bloccato da un centinaio di uomini e donne con bandiere e cartelli. Operai della Tiburtina Tessile, in sciopero, che andavano a manifestare sotto le finestre della Confindustria e al Viminale. Rimase un pezzo a guardarli. Era sul punto di unirsi al loro gruppo quando rifletté che poteva dare nell'occhio. Li guardò con invidia e con tenerezza. Oh, li avrebbe spartiti per andare a toccare una di quelle loro bandierine rosse, nere di pioggia. 3 settimane prima, quella stessa gente era di fronte a lui, a ascoltarlo, a Tivoli, camera del lavoro. Si trascinava per le strade del centro, in attesa che fossero le 6. Passò davanti alle vetrine della libreria di Nuccia. Alle 5:30 metteva piede nel locale in via Varese, che serviva da ufficio al cugino pasticcere e da studio a Boatta quando stava a Roma. Boatta era fuori e comparve un'ora dopo. Dato che il cugino lavorava a battere a macchina fatture, Boatta si prese dietro Ferranini al quarto piano, nella sua camera da letto. La conversazione fu corta. Tornato a Roma 2 giorni prima, alla direzione del partito aveva saputo che stavano prendendo in esame il caso Ferranini. Aveva chiesto un rinvio delle eventuali decisioni e di essere autorizzato a parlargli. «Rimediare è impossibile. Un qualche provvedimento ci dovrà essere. Però se non fai storie, se ti allinei subito, la situazione potrebbe migliorare. Ma prima di tutto, come ci sei cascato? Bada che è grossa. Hai visto la stampa? Che sfruttamento ne fanno?» Lui si stringeva la faccia fra le mani. «Se volevi affrontare una questione teorica, e cosa c'entri tu con la teoria? Potevi mandare a Rinascita, che so, a Critica Marxista. Ti bocciavano e festa finita». Il vecchio Boatta aveva occupato l'unica seggiola nella stanzina male illuminata e Ferranini era seduto su un baule. Sudava. «Critica Marxista», ripeté. «Oltretutto sono anni che la leggo. Era quello il posto. E in quanto a bocciarmi, forse non mi avrebbero bocciato. Ma io invece, cosa vuoi? Non ho la testa o ce l'ho sotto sopra. Ma come si fa, disgraziato? Non sono scherzi. Ti ho ben sentito battere su quegli argomenti. Dovevo figurarmi che li vai a stampare. Non ci avevo pensato mai, ma si vede che senza saperlo aspettavo l'occasione. Mi dicono ci sottopongo un articolo. Ah, bene. Sei uno di noi 200, 300 che abbiamo in mano il comunismo in Italia e ragionavi a questo modo. Io te lo devo dire, non ti capisco che uomo sei. Adesso, senti Boatta, io sono a disposizione. Resto a Roma, non mi muovo da casa. Aspetto. E intanto, grazie. Grazie a te di avermi parlato. Se ne andò ed era sincero, gli era riconoscente. Ora sapeva, era certo di potersi chiamare colpevole. Ne aveva necessità. Sino a quel momento non ci era riuscito. Si era minimizzato sempre, come se fossero esterne e formali, quelle che erano le gravi, imperdonabili circostanze di fatto dell'atto da lui commesso. Aveva continuato a rimasticare l'articolo, il contenuto dell'articolo, sebbene non avesse mai voluto toccare il fascicolo della rivista, ma lo ricordava parola per parola. Onestamente, per quanto si ingegnasse di autocriticarsi, non ci trovava un'intenzione prevaricante, una velleità di deviazione e nemmeno una sostanziale erroneità. Era un avvio a discutere nell'attesa che gli altri avessero più ragione di lui e glielo dimostrassero. Ora finalmente si rendeva conto. A casa, mentre si spogliava prima delle 11, gli venne sott'occhio una lettera Espresso e la aperse. C'era dentro solo un telegramma. Il telegramma, vecchio di 1 giorno e mezzo, arrivava da New York. Lo si informava che Nancy era ammalata, estremamente grave, e avrebbe desiderato vederlo. Possibilmente, if possible. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio.